Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La natura si rivela da sempre una fonte inesauribile di ispirazione per il mondo della ricerca, per il mondo della tecnologia. Anche perché, insomma, con i suoi miliardi di anni di esperimenti a cielo aperto le ha provate un po' tutte. Tutti noi, a nostra volta, abbiamo perlomeno sentito parlare del potere adesivo delle zampe del geco, della resistenza della tela del ragno, delle proprietà che hanno alcune foglie che non si bagnano e rimangono sempre pulite. Anche la robotica ha un suo filone, la biorobotica, ispirato al comportamento e alle soluzioni messe a punto per lo più dal regno animale, di cui ci sono vari esempi. Per la prima volta, però, c'è un progetto di robotica ispirato al mondo delle piante, Strip Plantoid. Lo sta sviluppando il centro di microrobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, diretto da Barbara Mazzolai. Buonasera, Mazzolai. Buonasera. Senta, allora, questo Strip Plantoid è il primo plantoide, appunto, si chiamano così i robot ispirati alle piante, ed è il primo robot con le radici, perché di questo stiamo parlando. Sì, stiamo parlando di un robot che appunto si ispira alle radici della pianta e quindi come le radici si muove nel suolo e lo fa crescendo. Ha dei sensori sull'apice, cioè sulla punta come le radici, e segue degli stimoli che riceve nel terreno, perché le radici possono rispondere a tantissimi fattori, sia fisici che chimici. Per esempio? Quindi, per esempio, fisici, la gravità, la temperatura, l'umidità, ma anche chimici, quindi azoto, fosforo, pH, e il nostro robot analogamente include dei sensori, sia fisici che chimici, nella punta, e la cosa interessante è che può muoversi andando verso questi gradienti oppure allontanandosi se il gradiente è un gradiente definito negativo. Come robot, questo robot plantoide ha degli aspetti che sono proprio unici. Ha degli aspetti unici perché per la prima volta è un robot che cresce. Diciamo che le piante, a differenza degli animali, per muoversi devono crescere e lo fanno per aggiunta di cellule. Nel nostro caso la radice robotica non cresce ovviamente per aggiunta di cellule, ma di nuovo materiale che viene depositato a livello dell'apice, diciamo della punta robotica, sì, come se fosse una stampante 3D, diciamo, okay, all'interno del robot stesso. Con il risultato che l'unica parte che viene spinta nel suolo, riducendo in questo modo l'attrito ma anche la pressione necessaria per muoversi, è la punta. Perché altrimenti dovreste fare uno sforzo enorme, no? Cioè voi non entrate nel suolo col principio della punta che deve scorrere, esatto, ai lati, no? Vi infiltrate. Sì, ci infiltriamo, e questo è proprio quello che fa la radice stessa, perché la fisica vale anche appunto per le piante, quindi dovrebbero applicare una forza per penetrare troppo grande, violente, per loro, certo, le dimensioni sono troppo piccole, quindi quello che fanno è aggiungono sempre poche nuovo cellule materiale in cima, e queste poi si, esatto, allargano ai lati. Esatto. Senta, il nostro robot lo fa analogamente. Esatto, benissimo. Senta, quali sono i campi di applicazione? I campi di applicazione, sicuramente uno per eccellenza dal quale siamo partiti, è quello del monitoraggio ambientale. Certo. Quindi la nostra idea è di avere dei plantoidi che si muovono sottoterra anziché sulla superficie, e proprio perché sono dotati di questi sensori nella punta possono andare a cercare per esempio anche degli inquinanti, quali metalli pesanti come il mercurio, il cadmio oppure il radon. Certo, invece di sbancare, no, intere superfici alla ricerca magari, non so, di qualche bidone di sostanze chimiche abbandonate, si fa fare questo lavoro in modo sotterraneo, letteralmente. Esatto, lo facciamo fare ai robot e lo fanno, come dicevo, attraverso queste radici che crescono. Questa è sicuramente una delle applicazioni, altre potrebbero essere applicazioni spaziali, quindi per monitoraggio non soltanto di suoli terrestri, esplorazioni, ma anche, certo, extraterrestri. Pensiamo a tutte le ricerche della vita su Marte, quante volte si, esatto, va a cercare qualcosa sottoterra. E poi altro? E poi recentemente, lavorando con dei medici, sono stati proprio i medici a suggerire per esempio di prendere ispirazione dalle radici per fare degli endoscopi che possono crescere e anche ruotare all'interno del tessuto, che in questo caso sarebbe appunto il tessuto umano, non danneggiandolo ma analogamente cercando per ad esempio alcuni parametri di interesse, quindi potrebbe essere un nuovo filone da coprire con il plantoide. Cioè un robot che cresce all'interno del corpo umano per esempio andando a cercare qualche sostanza specifica. Qualche sostanza o rilasciando per esempio farmaci, certo, in zone di interesse. Senta, ci sono delle bellissime immagini da vedere, dove? Allora, sicuramente maggiori informazioni le potete trovare al sito del progetto, che è www.plantoidproject.eu. Grazie Barbara Mazzolai. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani, stessa ora, stessa radio.